Il terzo anello, ad alta voce. Il richiamo della foresta di Jack London. Traduzione di Gianni Celati. Buck non riaprì gli occhi fin quando non venne ridestato dai rumori del campo a risveglio. Dapprima non comprese dove fosse. Durante la notte era nevicato ed egli era completamente sepolto. Le pareti di neve lo premevano da ogni lato e un'ondata di terrore lo invase. Con i muscoli di tutto il corpo spasmodicamente tesi d'istinto, il pelo irto sul collo e sulle spalle, nella gola un ringhio feroce, saltò fuori nella accecante luce del giorno, mentre la neve gli svolazzava attorno in una nube sfavillante. E, prima di atterrare sulle quattro zampe, Buck vide il bianco accampamento dinanzi a sé e comprese dov'era, rammentandosi di quanto era accaduto dal momento in cui era uscito a passeggiare con Manuel fino a quando si era scavato quel buco la notte prima. Un'esclamazione di François salutò la sua apparizione. «Cosa ho detto io?» gridava il conducente a Perrault. «Quel buco impara tutto svelto!» Perrault assentì gravemente. In quanto corriere del governo canadese, incaricato di portare importanti dispacci, ci teneva ad avere migliori cani ed era particolarmente soddisfatto dell'acquisto di Buck. Nel giro di un'ora, altri tre eschimesi furono aggiunti alla muta, che arrivò così ad un totale di 9 cani, e in meno di un altro quarto d'ora tutti avevano le bardature addosso e stavano filando sulla pista verso Dahia Canyon. Buck era contento di essere partito, e sebbene il lavoro fosse pesante, s'accorse che non gli dispiaceva troppo. Era sorpreso poi dall'ardore che animava tutta la muta e che veniva comunicato anche a lui. Dave era il cane di coda, o cane di slitta, e davanti a lui tirava Buck. Poi veniva Sollex, indi il resto della muta che si snodava in avanti, in fila indiana, sino alla testa, posizione occupata da Spitz. Buck era stato posto intenzionalmente tra Dave e Sollex, perché potesse essere da loro istruito. Dave era giusto. E molto saggio. Non mordeva mai Buck senza motivo, ma non mancava di farlo laddove ve ne fosse bisogno. E del resto veniva spalleggiato dalla frusta di François. Cosicché era più conveniente correggersi, constatò Buck, piuttosto che rispondere ai morsi del compagno. Una volta, durante una breve sosta, essendosi impigliato nelle tirelle della slitta, ritardando la partenza, sia Dave che Sollex gli si avventarono contro e lo castigarono duramente. Ne risultò un guazzabuglio ancora peggiore, ma da quella volta Buck fece molta attenzione a tenere le tirelle separate. E prima che finisse quella giornata era già talmente padrone del mestiere che i suoi compagni smisero di tormentarlo. La frusta di François allora schioccò con minor frequenza. E quanto a Perrault, costui fece a Buck persino l'onore di sollevarlo sulle zampe per esaminargliene con attenzione. In quella durissima giornata di lavoro, percorsero il canyon attraverso il Sheep Camp, fin oltre le Scales e la fascia boschiva, per i ghiacciai e cumuli di neve alti 100 piedi, e oltre la dorsale del Chilkoot, che divide il versante sul mare da quello interno, come una minacciosa sentinella del triste e solitario nord. Scesero quindi a gran velocità attraverso la catena di laghi formatisi nei crateri di vulcani spenti e a notte inoltrata raggiunsero un grande accampamento all'estremità del lago Bennett. Qui Buck si scavò un buco nella neve ed esausto com'era dormì il sonno del giusto, benché troppo presto poi venisse ricacciato fuori nel freddo e nel buio e attaccato alla slitta assieme ai compagni. Thank you. Quel giorno fecero 40 miglia, dato che la pista era già battuta. Ma il giorno seguente, per molti altri giorni, dovettero aprirsi una pista e faticare di più e procedere più lentamente. Di solito però viaggiava innanzi alla muta, battendo la neve con le racchette ai piedi per facilitare il compito dei cani, mentre François guidava la slitta alla barra, e solo di rado prendeva il posto di Perrault. Andava di fretta Perrault, il quale vantava una grande pratica coi ghiacci, cosa indispensabile in simili circostanze, poiché il ghiaccio autunnale è molto sottile e affatto inesistente dove l'acqua più scorre. Giorno dopo giorno, interminabilmente, quel travaglio tra le tirelle assorbiva Puck. Ogni giorno levavano il campo nel buio e il primo grigiore dell'alba li trovava già sulla pista, con già molte miglia coperte alle spalle, per poi alla fine di ogni giorno piantare il campo nell'oscurità e mangiare la loro razione di pesce e strisciare a dormire nella neve. Buck era sempre affamatissimo. La libra e mezzo di salmone seccato che costituiva la sua razione quotidiana pareva svanire nel nulla. Non era mai sufficiente. Ed egli pativa in continuazione i morsi della fame. Eppure gli altri cani con minor peso e più abituati a quella vita ricevevano soltanto una libra di pesce, riuscendo a mantenersi ugualmente in buone condizioni. Abbandonò ben presto la tendenza ad essere schifiltoso che aveva caratterizzato la sua vita precedente. Abituato a gustare il cibo con calma, qui trovò dei compagni che finivano di mangiare prima di lui e poi rubavano quel che restava della sua razione. E Buck non aveva modo di difendersi. Mentre lottava con due o tre cani, il cibo scompariva nella bocca degli altri. Per rimediare a ciò, prese a mangiare svelto quanto loro. E tanto lo tormentava la fame che non disdegnava neppure prendere quel che non era suo. Osservava e imparava. Avendo visto un bel giorno Pike, uno degli ultimi cani arrivati, gran ladro e astuto simulatore, rubare una fetta di lardo mentre Perrault volgeva le spalle, Buck ripeté l'indomani la stessa prodezza, sottraendo per giunta il pezzo intero. Ne nacque un putiferio, ma egli non venne sospettato. E toccò a Dab, un cane pasticcione e maldestro che si faceva sempre cogliere con le mani nel sacco, venir punito per il misfatto di Buck. Questo primo furto dimostrò come Buck fosse in grado di sopravvivere nello stile ambiente del Nord. Dimostrò la sua adattabilità, la sua capacità di adeguarsi a condizioni mutevoli, senza la quale sarebbe andato ben presto incontro ad un'orrenda fine. Segnò inoltre la decadenza o lo sfaldarsi della sua natura morale, cosa inutile e nociva nella spietata lotta per l'esistenza. Cosa che poteva andar bene nelle terre del Sud, dove vige la legge dell'amore, dell'amicizia, il rispetto della proprietà privata, dei sentimenti personali. Ma nelle terre del Nord, dove vige la legge della zanna e del bastone, chiunque si fosse preoccupato di cose simili era un pazzo. E se avesse continuato a dar loro importanza, se la sarebbe cavata assai male. Non che Buck facesse simili ragionamenti. Era adatto a quella nuova vita. Ecco tutto. E inconsapevolmente vi si adeguava. In tutta la sua vita non aveva mai evitato un combattimento, anche se in condizioni di svantaggio. Ma il bastone dell'uomo con la maglia rossa, ora, gli aveva conculcato un codice ben più fondamentale e primitivo. In quanto civilizzato si sarebbe fatto uccidere per questioni d'ordine morale, fosse anche per difendere il frustino del giudice Miller. Non rubava per il piacere di rubare, ma per le proteste del suo stomaco. Ne lo faceva apertamente, bensì di nascosto e con astuzia, per timore del bastone e delle zanne. In conclusione, faceva quel che faceva perché farlo era più comodo che non farlo. Thank you. Lo sviluppo di Book, o il suo regresso, fu cosa rapida. I suoi muscoli divennero duri come ferro ed egli divenne insensibile ad ogni patimento quotidiano. Giunse anche a crearsi una propria economia, sia interna che esterna. Poteva mangiare qualsiasi cosa, per quanto indigesta e ripugnante. Una volta ingoiata, i succhi del suo stomaco ne estraevano ogni minima particella di nutrimento, trasformandola in tessuti solidi e forti. La vista e l'olfatto gli divennero acutissimi, e il suo udito si sviluppò a tal punto che nel sonno poteva udire i rumori più fievoli e comprendere se preannunciassero tranquillità o pericolo. Imparò a staccarsi coi denti il ghiaccio formatosi tra le dita, e quando aveva sete e uno spesso strato di ghiaccio copriva una pozza, apprese a spezzarlo sollevandosi sulle zampe posteriori, per poi battervi sopra le zampe anteriori rigide. Ma la sua caratteristica più notevole era la capacità di fiutare il vento e persino prevederlo con una notte d'anticipo. Anche se non c'era alito di brezza nell'aria quando scavava il suo giaciglio presso un albero o un terrapieno, si poteva star certi che il vento che sopravveniva più tardi l'avrebbe immancabilmente trovato con la schiena volta a tramontana, ben riparato e al calduccio. E non soltanto, apprese per esperienza, si risvegliarono in lui anche istinti da lungo tempo sopiti. Si lasciò alle spalle l'eredità delle generazioni addomesticate e confusamente riandò con la memoria agli albori della sua razza, all'epoca in cui i cani selvatici vagavano in branchi nelle foreste primordiali e uccidevano la preda appena catturata. Non fu per lui difficile imparare a combattere lacerando e dilaniando col morso rapido del lupo, giacché i suoi antenati, di cui aveva perduto memoria, avevano sempre combattuto a quel modo. Essi ridestarono in lui l'antica vita, e le antiche astuzie che avevano lasciato in eredità perpetua la razza erano adesso le astuzie di Book. Riaffioravano senza sforzo e senza ricerca, quasi fossero sempre state in lui. Quando nelle gelide notti silenziose egli puntava il muso a una stella e lanciava lunghi ululati da lupo, erano i suoi antenati, ora divenuti polvere, che puntavano il naso verso quella stella e ululavano attraverso i secoli fino a lui. E le sue cadenze erano le loro, cadenze che esprimevano il loro dolore e ciò che per loro significavano la quiete, il freddo e il buio. Così, quasi a dimostrare qual gioco di burattini sia la vita, l'antico canto risorgeva in lui ed egli ritrovava se stesso. E tutto ciò perché gli uomini avevano scovato nel nord un biondo metallo e perché Manuel era un aiutante del giardiniere con stipendio non sufficiente per provvedere alla moglie e alle piccole varie copie di se stesso. La primitiva bestia dominatrice era forte in Buck, e nelle dure condizioni di vita sulla pista si sviluppò vieppiù. Fu tuttavia uno sviluppo segreto. L'astuzia appena acquisita gli forniva equilibrio e controllo. Troppo preso ancora dal problema dell'adattamento alla nuova vita per sentirsi rilassato, non soltanto non cercava scontri, ma li evitava più che poteva. Il suo atteggiamento era caratterizzato dalla ponderatezza. Non si concedeva mosse imprudenti o atti precipitosi, e nonostante l'odio che correva tra lui e Spitz, evitava ogni azione offensiva senza tradire la minima impazienza. Per contro, forse perché indovinava in Buck un rivale pericoloso, Spitz non perdeva occasione per mostrargli i denti. Al termine di quella giornata, avevano piantato il loro campo triste e squallido sulle rive del lago Lebargue. La tormenta di neve, un vento che tagliava come una lama rovente, nonché l'oscurità, li avevano costretti a cercare a tentoni un posto per accamparsi. Alle loro spalle sorgeva una parete di roccia a picco, e Perrault e François furono costretti ad accendere il fuoco e stendere i loro sacchi sulla nuda superficie del lago ghiacciato. Alcuni pezzi di legna alla deriva servirono per un fuoco, che poi sciolse il ghiaccio e vi affondò, lasciandoli nel buio a finire la cena. Proprio a ridosso e a riparo della roccia si scavò Buck la sua tana, ed era tanto comoda e tiepida che quando François distribuì il pesce che aveva sgelato sopra il fuoco, egli la lasciò a malincuore. Ma finita la razione, mentre stava per rientrarvi, Buck scoprì che la sua tana era occupata. Un ringhio di avvertimento gli rese noto che l'intruso era Spitz. Finora Buck aveva evitato risse col suo nemico, ma questa volta era troppo. La belva che era in lui ruggì. Si scagliò su Spitz con un furore che li sorprese entrambi, ma sorprese in particolare Spitz. Anche François fu stupito quando essi schizzarono fuori in un groviglio dalla tana devastata, ma indovinò il motivo della lite. «Ah ah!» gridava Buck. «Forza, forza! Dagliele per il Dio!» Non meno propenso alla lotta era Spitz. Gridando di rabbia e di impazienza, s'aggirava avanti e indietro in attesa del momento buono per avventarsi. E Buck, non meno desideroso e non meno cauto, s'aggirava anch'egli avanti e indietro per coglierlo di sorpresa. Ma proprio allora avvenne l'inatteso. Un'imprecazione di Perrault, lo schiantarsi di un bastone su una struttura ossea e un acuto grido di dolore annunciarono l'inizio del pandemonio. D'improvviso l'accampamento apparve popolato da furtive forme irsute, cani famelici, forse un centinaio, che avevano fiutato il campo fin da qualche villaggio indiano, s'erano avvicinati, mentre Buck e Spitz combattevano. Poi, quando i due uomini s'erano precipitati su di loro impugnando pesanti randelli, s'erano dati a mostrare i denti e a contrattaccare. Erano fuori di sé per l'odore del cibo. Perrone trovò uno con la testa ficcata nella cassa dei viveri, e il suo randello piombò pesantemente sulle magre costole dell'animale, mentre la cassa dei viveri si ribaltava per terra. Di colpo, una ventina di quelle belve fameliche s'azzuffarono sopra il pane e il lardo. Le bastonate non avevano su di loro effetto alcuno. Pur guaendo e ululando sotto la gragnuola di colpi, continuarono a difendersi in modo forsennato finché non ebbero divorato l'ultima briciola. Buck non aveva mai visto cani simili, con occhi come tizzoni e la bava alla bocca. Ma impazziti per la fame, erano terrificanti e irresistibili. Non v'era possibilità di fermarli. Al primo assalto, i cani da tiro si videro ricacciati contro la parete di roccia. Buck fu attaccato da tre eschimesi e in un baleno ebbe la testa e le spalle piene di ferite e lacerazioni. Si udiva uno spaventoso baccano. Billy guaiva come al solito. Dave e Sollex, perdendo sangue da moltissime ferite, combattevano coraggiosamente fianco a fianco. Joe mordeva come un demonio, e una volta che i suoi denti si strinsero sulla zampa anteriore di un cane eschimese, la stritolarono fino all'osso. Quanto a Buck, egli addentò alla gola un avversario schiumante, e quando le sue zanne affondarono nella giugulare fu spruzzato di sangue dovunque. Il sapore del tiepido sangue in bocca lo inferocì ancor di più. Si slanciò su di un altro, ma al tempo stesso sentì le zanne affondare nel suo collo. Era Spitz, che lo assaliva di fianco a tradimento. Perrault e François avevano già liberato la loro zona ed accorrevano in aiuto dei cani da tiro. L'onda selvaggia di bestie fameliche indietreggiava davanti a loro e Buck si liberò con una scossa. Ma fu solo questione di un momento. I due uomini furono costretti a tornare indietro di corsa per salvare i viveri e i cani eschimesi tornarono a lanciarsi sulla muta. Billy, col coraggio della disperazione, balzò attraverso quel cerchio selvaggio e fuggì via sul ghiaccio. Pike e Dub lo seguirono, con il resto della muta alle spalle. Buck stava raccogliendo le forze per balzare a rincorrerli, quando vide con la coda dell'occhio Spitz avventarsi su di lui con intenzioni evidenti di rovesciarlo. Una volta a terra, sotto la massa di cani eschimesi, per lui sarebbe stata finita. Allora si puntellò per sostenere l'urto di Spitz. Indi corse a raggiungere gli altri cani in fuga sul lago. Francesco Siciliano ha letto Il richiamo della foresta di Jack London, regia di Anna Marzetti, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it